il guadagno. Siamo tutti animati da un istinto che ci porta a compiere ogni cosa per interesse o guadagno. Infatti, il contadino lavora la terra per trarne profitto, l'operaio svolge il suo lavoro e si attende il salario. Lo studente è disciplinato a scuola per ottenere dei buoni voti e per istruirsi, io stesso che parlo del Vangelo mi aspetto sempre un risultato positivo dal seme della parola che spargo. Anche Dio ha dato suo figlio a morire in croce per tutti i peccatori perché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perciò tutti, compreso Dio, compiamo cose con uno scopo, ma non uno scopo senza senso e tantomeno di perdita o di svantaggio, ma sempre teso a un profitto. Anche queste riflessioni hanno uno scopo interessato, cioè che chi ascolta ne riceva un'utilità per questa vita, ma soprattutto per quella futura ed eterna. Vediamo nella parola di Dio alcuni ordini divini in merito all'interesse o al guadagno, indicativi di quando esso è lecito e quando non lo è, di quale sia il vero guadagno, e di quello che alla fine si rivelerà invece una perdita. Poiché il nostro istinto ci porta a compiere ogni cosa per interesse o guadagno, l'Eterno, nella sua legge sociale, aveva dato delle disposizioni che, se fossero osservate oggi, contribuirebbero a togliere una piaga immensa nella società, cioè l'usura. Inoltre permetterebbero un maggiore avvicinamento fra le persone. A tuo fratello non darai in prestito ad interesse, interesse per denaro, interesse per cibo o per qualsiasi cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare interesse, ma non a tuo fratello, affinché l'Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutto ciò a cui porrai mano nel paese che stai per entrare ad occupare. Deuteronomio 23:19-20. Molti hanno constatato che gli ebrei ancora oggi generalmente si aiutano economicamente a vicenda. Questo modo di fare non scaturisce solo da un principio di solidarietà, ma soprattutto dall'ubbidienza ai comandamenti di Dio che imponevano loro di aiutare sempre un connazionale senza pretendere interessi. Questo gesto, inevitabilmente meno anche se non si vorrebbe meno, lega sentimentalmente e fa fraternizzare due persone, inoltre impedisce al prossimo di dover andare da chi approfitterebbe della situazione per opprimerlo. Se tutti i popoli usassero questo principio divino, quanta fratellanza, quanta solidarietà, quanti usurai in meno. E poi chi disprezza la fede cristiana continua a sostenere che il cristianesimo non è attuale né utile alla società, ma la loro ignoranza è evidente. Tra i vari guadagni vantaggiosi per l'uomo c'en, è uno poco considerato e ricercato, eppure nulla è più utile di questo: trovare la sapienza e l'intendimento. Il libro dei Proverbi si esprime in questo modo: beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene l'intendimento. Poiché il guadagno che essa procura è preferibile a quello dell'argento, il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino. Proverbi 3:1-3:14. Quando la parola di Dio si riferisce alla sapienza, non intende una conoscenza puramente accademica o una straordinaria cultura, ma intende riferirsi al patrimonio di conoscenza che vi è in Dio tramite Gesù Cristo, un sapere che ha la potenza di trasformare chi lo acquisisce e lo vive. Infatti, nel mondo vi sono due tipi di sapienza: una procede dall'uomo e dal diavolo, e un'altra procede da Dio. La sapienza o la conoscenza che non procede da Dio è quella naturale scaturita nel giardino dell'Eden quando il serpente, per indurre Eva a disubbidire al volere dell'Eterno, le disse: «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male». Genesi 3:4-5. Adamo ed Eva scelsero di essere indipendenti da Dio per voler essere come Dio, e con questa indipendenza scelsero una conoscenza del bene e del male, cioè della vita, che non appartiene a Dio e che non era stata da Lui promessa. Adamo ed Eva cercarono qualcosa che Dio non aveva pensato di accordare loro, e con tale gesto dichiaravano di non avere più bisogno dell'autore della loro vita. Questo comportamento dagli scrittori del Nuovo Testamento viene definito mondo, cioè quel sistema che L'uomo si è costruito nel tentativo di soddisfare una conoscenza che non procede da Dio, costituente tutto ciò che cerca di soddisfare i suoi desideri sbagliati naturali corrotti. Possiamo trovare il mondo nell'arte, nella scienza, nella religione, nell'educazione, ma soprattutto nella cultura che sono mantenuti al di fuori dell'intervento del Dio Trino. Ecco perché la parola di Dio dichiara che l'intendimento e la sapienza sono più preziosi dell'oro, perché pochi vengono a conoscenza della sapienza di Dio tramite Cristo, e pochissimi accettano di non possedere la giusta sapienza della vita e di camminare nel buio. L'atteggiamento più difficile dell'uomo nei confronti del messaggio di Cristo non è aggiungere nuove verità, ma riconoscersi totalmente nel buio e nell'ignoranza, e come tale credere che Cristo sia la sua sapienza e luce. Vi è un altro guadagno, che non nasce propriamente da un interesse, e proprio perché non vi è interesse esso diventa guadagno. Lo esprime l'Apostolo Paolo nella sua prima lettera a Timoteo. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signor nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e dispute di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vane dispute di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno, da costoro separati. Ora la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla, ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. 1 Timoteo 6:3-10. In questa riflessione, Paolo ricorda che chi insegna delle dottrine che non hanno come fondamento la grazia, cioè la salvezza non meritata mediante il solo atto di fede, è una persona priva di verità, è corrotta, che ha come interesse le dispute fine a se stesse, e insegna che la salvezza si ottenga come un conquista, cioè un guadagno. Ma, continua Paolo, la salvezza meritata mediante il solo atto di fede è già di per sé un grande guadagno, perché rende contenti dello stato sociale in cui ci si trova, mentre coloro che vogliono a tutti i costi cambiare la posizione sociale determinata da Dio per loro si procurano molti dolori e affanni. Addirittura alcuni hanno perso la fede concentrandosi in questo intento. Prendere sul serio questa valutazione della vita procura un grandissimo interesse, un guadagno che, è vero, spesso non si vede nell'immediato, e proprio per questo, infatti, se io imbocco la giusta strada per un bosco evito di perdermi e di fare un percorso inutile, ma non essendo cosciente di ciò che ho evitato percorrendo la strada giusta, non posso apprezzare fino in fondo il guadagno ricavato in termini di tempo e fatica. Noi siamo inclini ad apprezzare solo il guadagno immediato e consapevole, anziché a credere alla realtà di un eventuale profitto non consapevole e futuro. Quanto miseri siamo! Anche essere coscienti di questo è un grande guadagno. Fra le varie riflessioni, in merito al guadagno o interesse, vi è un'affermazione dell'Apostolo Paolo, che spicca per la sua originalità e portata spirituale, e espressa in una lettera che egli scrisse a credenti che avevano sofferto per la causa di Cristo e che abitavano nella città di Filippi. Secondo la mia fervida attesa e speranza, non sarò svergognato in cosa alcuna, ma con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Per me, infatti, il vivere è Cristo, e il morire guadagno. Filippesi 1:20-21. Al mondo ci sono persone determinate a raggiungere il loro scopo e pronte a soffrire ogni cosa pur di ottenere un minimo di guadagno, fosse anche solo un piccolo merito. L'Apostolo Paolo non era da meno. Tutta la sua vita era tesa a compiere la volontà di Cristo a qualsiasi costo, sia con la vita, sia con la morte. L'originalità di Paolo sta nel considerare che la vita fosse vissuta per Cristo e la morte è un guadagno. E non tanto che la vita fosse un guadagno e la morte è un'inevitabile conseguenza. Questo perché con la morte l'Apostolo Paolo avrebbe ottenuto i suoi veri interessi. Innanzitutto perché con la morte Paolo avrebbe finito di soffrire. Non che la sofferenza per Paolo fosse una cosa negativa, perché sapeva che mediante essa poteva essere partecipe delle sofferenze di Cristo e sperimentare la potenza di Dio. Soffrire, però, resta comunque un'esperienza contraria e non indicata alla nostra natura umana. Perciò l'anelito più grande di un essere umano è teso proprio a non soffrire e godere tutto ciò di cui ha bisogno. La beatitudine eterna, per esempio, è la risposta a questo grande bisogno dell'uomo. Inoltre, per Paolo e per tutti coloro che hanno posto fede in Cristo e aspettano il suo ritorno, la morte è il momento dell'incoronazione e della premiazione per non aver amato la propria vita e averla esposta alla morte. Solo così la morte è un guadagno o un interesse, un guadagno o un interesse, dei quali non ci si pentirà mai. Questo spiega perché pochi, anzi pochissimi, entreranno nella beatitudine eterna, perché avranno ricercato il guadagno di amare le tenebre più che la luce, si saranno procurati l'interesse di farsi dei tesori in terra anziché il cielo, avranno ricevuto il compenso di amare la gloria degli uomini più della gloria di Dio, ma avranno purtroppo fatto affari o interessi in ciò che è solo limitato e fugace, e per l'eternità piangeranno dei loro magri e inutili guadagni o interessi. Febbraio 2007. Ellero.